Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno e buona domenica, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con la rassegna stampa dei settimanali. Beh, questa è stata davvero una settimana in cui si è parlato molto di tasse. Da ieri è in vigore questo aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 21%, appunto, anzi, se posso, nel mio piccolo, anche io vi consiglio, vigilate sugli aumenti non dovuti. Ricordatevi che il caffè stava all'aliquota del 10%, quindi se vi hanno aumentato la tazzina del caffè, probabilmente non è colpa dell'IVA, ma ci sono altri motivi dietro. Dicevo, si è parlato molto di tasse perché è stata la settimana appunto della definitiva conversione della manovra, e di tasse parlano anche i settimanali che abbiamo visto in questi giorni preparando questa puntata. Allora, ad esempio, uno spunto originale da Panorama nella rubrica di Luca Ricolfi, Fatti e Credenze: il segreto dei paesi che crescono, poche tasse sulle imprese. Detto così sembra uno slogan già molto sentito, ma nello svolgimento invece della rubrica Ricolfi segnala dei dati molto interessanti. Dice sostanzialmente: secondo la maggior parte degli analisti, noi finiremo per portare la pressione fiscale italiana verso il livello record del 44,5%, mai toccato in 150 anni di storia nazionale. Le troppe tasse, prosegue Ricolfi, spaventano tutti noi cittadini contribuenti, ma preoccupano molto anche coloro che hanno una visione liberale dell'economia e sono convinti che questa alta pressione fiscale soffocherà la crescita e impedirà all'Italia quindi di abbattere il suo enorme debito pubblico. Ma è vero che un'alta pressione fiscale impedisce la crescita? E qui Ricolfi fa una distinzione, perché dice: il pensiero prevalente, diciamo a sinistra, per usare una categoria magari un po' invecchiata, ma grazie alla quale ci capiamo, dice: secondo il pensiero prevalente a sinistra non è vero niente. I paesi scandinavi sono la prova che la pressione fiscale non c'entra nulla, perché nell'ultimo lungo periodo di crescita, dal 1995 al 2007, il prodotto interno lordo pro capite dei tre grandi paesi scandinavi, Svezia, Finlandia e Norvegia, è cresciuto al ritmo del 3% l'anno, a dispetto di una pressione fiscale che è prossima al 50%. Quindi più alta anche della nostra, ed è una fra le più alte dei paesi OCSE. Secondo questa visione, la crescita non dipende dalle basse tasse, ma da altro, cioè i livelli di istruzione, gli investimenti in ricerca e sviluppo e così via. Ecco, tuttavia, dice, guardando meglio questi paesi, vediamo che non è proprio vero che la pressione fiscale sia al 50% in modo uniforme. Se proviamo a guardarlo più da vicino, scopriamo che un'alta pressione fiscale complessiva non solo convive con uno Stato che funziona, e quindi il discorso dei servizi, ma è accompagnata da un'imposizione bassa, bassissima, sulle imprese, ossia sul motore della crescita. Proprio in questo ultimo periodo di crescita, 95-2007, l'imposta societaria nel nostro paese è stata al 42,4% come punta massima, ora è un po' più bassa, mentre nei paesi nordici è stata al 28%, e gli effetti sulla crescita si vedono, perché l'Italia è cresciuta a un ritmo medio dell'1,3% e i paesi nordici al 3,1%. Quindi probabilmente c'è del vero nel pensare che diminuendo la pressione su chi poi produce il lavoro e può dare opportunità di crescita, ci sono poi dei benefici diffusi. Questo Ricolfi su Panorama. Ma come vi dicevo, oramai le tasse hanno avuto in queste settimane una popolarità davvero inusuale, tanto che appunto ci sono anche testate tradizionalmente più lontane da queste tematiche economiche che invece decidono di occuparsene. Ne cito una per un po' per altre anche. Vanity Fair propone una pagina in cui mette a confronto da una parte le osservazioni di un sociologo, Luigi Manconi, che dice: le ultime sullo spread insieme a un caffè, la crisi vista dal bar. Cioè, qui ironizza un po' Manconi, ma ci invita anche a pensare sul fatto che ormai ci siamo davvero abituati a utilizzare dei termini economici anche molto specifici, come appunto lo spread tra i nostri BTP e i Bund tedeschi, e ne parliamo, ne discutiamo con fervore e sono entrati davvero nella nostra vita quotidiana. E nella nostra vita quotidiana, ed è la colonna che accompagna poi, affianca questo articolo di Manconi su Vanity Fair, nella nostra vita quotidiana c'è pesantemente il fisco, di nuovo tasse. 7 pagine di moduli, 80 di istruzioni per l'uso, scritte fitte fitte. Sapete cos'è? Il modello 730, cioè il modello più semplice per la dichiarazione dei redditi. Viene usato, ricorda Vanity, da 16 milioni di pensionati dipendenti italiani. Lo chiamano appunto modello semplificato. Ma secondo Confesercenti, che ha appunto segnalato queste difficoltà, alle aziende non va meglio perché in un anno si contano 694 scadenze fiscali, cioè più di 2 al giorno lavorativo. E non per niente, prosegue Confesercenti, ripresa da Vanity Fair, non per niente l'Italia sta al 128esimo posto nel mondo per la facilità di pagare le tasse. Questa cosa viene detta da uno studio della Banca Mondiale che ha fatto appunto una rilevazione insieme a una società di revisione su 183 paesi. Ci siamo classificati 128esimi su 183. Le variabili sono non solo l'esborso, cioè quanto paghiamo, il tema anche e soprattutto il tempo dedicato alla burocrazia, il numero di prelievi l'anno. Secondo lo studio, un'azienda italiana media impiega 285 ore all'anno per pagare le tasse e il 68,6% dei profitti commerciali del paese va al fisco. In Europa stanno peggio di noi la Serbia, il Montenegro e la Romania, questo ha rilevato l'indagine di Price Waterhouse. E poi naturalmente c'è il problema notorio, tristemente noto, dell'evasione e del sommerso, ma questa davvero è un'altra storia. Anche perché poi, e uso un po' questa cosa per chiudere questa parte del discorso dedicata all'economia, anche perché poi c'è il problema appunto del costo della vita. Panorama, nel suo numero che in edicola da giovedì, ha preso una indagine di altro consumo e ha provato a renderla in forma grafica per capire come si sono modificati i prezzi e l'inflazione in 10 anni dall'avvento della moneta unica. E effettivamente, se la stima media complessiva ci dice che il potere d'acquisto nostro, di noi italiani, è diminuito di 7 punti percentuali, guardando poi nel dettaglio ci si accorge che molti aumenti sono ben più consistenti. Ad esempio i prodotti, non so, come l'acqua, sono cresciuti del 52%, il gas del 34%, l'elettricità del 24%. Peraltro altri sono diminuiti, i computer sono scesi del 64%, gli apparecchi telefonici del 73%, ma qui l'euro, verrebbe da precisare, non c'entra, è una questione di disponibilità di beni più tecnologicamente avanzati, e quindi quelli che magari erano 10 anni fa il top, il meglio dell'offerta, sono diventati invece molto più accessibili e il livello di prezzo massimo si è spostato su altri prodotti. Anche il costo per una pizza risulta cresciuto del 20,2% e il caffè al bar del 35%. Tutto questo prima naturalmente dell'aliquota IVA passata dal 20 al 21%, ma attenzione, non tutto deve aumentare, l'abbiamo detto. Allora, queste considerazioni appunto dimostrano come l'avvento della moneta unica abbia portato questa diminuzione, che sì, sarà complessivamente intorno al 7%, ma in alcuni casi è stata molto molto più dolorosa per le nostre tasche. Ora, a corredo, ma davvero ci permettiamo una piccolissima digressione, a corredo va detto: nessuno può dirci che cosa sarebbe successo, e probabilmente sarebbero stati scenari ben peggiori se non avessimo avuto la moneta unica. Quindi qui bisogna distinguere tra l'avidità, i comportamenti poco corretti di chi ha utilizzato il passaggio alla moneta unica e magari potrà utilizzare oggi l'aumento dell'IVA per imporre degli aumenti non giustificati, e invece quello che è stato proprio la dinamica complessiva dell'economia, non solo nazionale ma anche globale. Cambiamo completamente argomento perché mi segnala Alessandro Balia, che questa mattina è qui con me, mi ha aiutato a preparare questo programma insieme, come noto, ad Anita Panizza, che salutiamo, che ci manca ormai pochissimo tempo prima di fermarci per le informazioni sul traffico. Allora, su IL, Intelligence in Lifestyle, è il mensile che trovate da venerdì con Il Sole 24 Ore, c'è una gustosissima storia dei distributori di carburante, perché effettivamente, essendo un oggetto quotidiano, magari ci pensiamo molto poco, ma chi non è più giovanissimo probabilmente ricorda che i distributori di benzina, le pompe di benzina, le aree di servizio sono profondamente cambiate anche solo negli ultimi decenni. Ecco, in un testo preparato da Marco San Micheli e ben illustrato da Laura Cantadori, spiega come appunto si sono evolute le pompe di benzina e i distributori di benzina dal 1800 per arrivare ad oggi, dai primi del Novecento per arrivare ad oggi. Una cosa curiosa che vi voglio dire prima di passare la linea alle informazioni sul traffico è che i primi venditori di benzina storicamente sono stati i farmacisti, perché nel vendere medicine, oltre a vendere medicine, si vendevano prodotti di drogheria, ma pure cherosene e benzina. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Allora, vi stavo raccontando di questa bella storia dei distributori di benzina che trovate su Il è il mensile del Sole 24 Ore, è in vendita con il nostro quotidiano da venerdì, lo trovate anche oggi in edicola. Tra l'altro oggi in edicola c'è, come ormai è un'abitudine, anche il racconto d'autore. Questa volta l'autore è veramente uno di quegli autori di tutto rispetto, perché si tratta di Herman Hesse e il racconto che proponiamo si chiama Il pellegrinaggio in Oriente. Esse è l'autore di Siddhartha, di Narciso e Boccadoro, sono libri famosissimi, è oggi con Il Sole 24 Ore. Ma torniamo allora a questa storia dei distributori, che è davvero curiosa, perché, come vi dicevo, in principio i primi venditori di carburante sono stati i farmacisti. L'assortimento in vendita al pubblico prevedeva medicine, prodotti di drogheria e cherosene e benzina. Poi sono venuti i distributori, che erano però lontani parenti di quelli che frequentiamo oggi. Un tempo ovviamente le aree erano localizzate fuori dai centri abitati, sia per ragioni di sicurezza sia anche per la scarsità di traffico. Le stazioni di servizio erano molto spartane, avevano una al massimo due pompe di benzina e una postazione per l'operatore. Poi arrivò un americano, si chiamava Sylvanus Bowser, e inventò l'erogatore di carburante. Era l'anno 1885, lui mise al barile una pompa a stantuffo azionata a leva con un rubinetto, insomma una cosa che, se ce l'avete presente, somigliava molto a quelle pompe che si usano per attingere acqua dai pozzi. Nel 1905, quando le automobili, parliamo degli Stati Uniti, cominciavano a essere abbastanza diffuse, nel Missouri, precisamente a St. Louis, due altri signori fondarono un'azienda che si chiamava Automobile Gasoline Company, ed era proprio la prima azienda che puntava sulle rivendite di benzina. Poi i materiali sono mutati, ci sono anche dei bei disegni che ricordano come erano fatti i distributori di benzina, gli erogatori, via via nei decenni scorsi. E diciamo che una spinta decisiva ci fu con l'Art Deco, quindi siamo passati decisamente in pieno Novecento: colori, decorazioni, finiture, linee, sagomature. Allora i distributori di benzina diventarono davvero degli oggetti di design, così scrive appunto Marco San Micheli su Il. E diventarono segnale di comunicazione, strumento di erogazione di un servizio che cominciava ad avere un'estetica ricercata e accattivante. Poi anche in Italia in realtà abbiamo avuto degli esempi di design interessanti, perché ad esempio sono famose le versioni, 13 in tutto sono state, del modello AT di quella che si chiama Bacciocca. La Bacciocca è la tettoia dei distributori Agip, che fu disegnata da Mario Bacciocchi appunto per la Eni di Enrico Mattei, quindi parliamo del secondo dopoguerra, del periodo del boom economico. Poi più avanti si passò dalla stazione di rifornimento all'area di servizio, le aree che vediamo adesso. È molto più recente, degli anni 70, l'esperimento di fare una colonnina cilindrica in acciaio con dei grandi display in plexiglass, e poi le nuove sperimentazioni e le cose che adesso vediamo. Ecco, vi devo una spiegazione: perché i farmacisti erano i primi venditori? Perché all'epoca il carburante, il petrolio sostanzialmente, non era ritenuto tanto un carburante per le automobili, che erano molto poche, quanto piuttosto un rimedio antipidocchi. Allora cambiamo completamente argomento, torniamo su questioni economiche. 7 dovette con il Corriere della Sera da giovedì diventare croupier. C'è una passione crescente per fare questo lavoro, il lavoro del croupier. Noi sappiamo che c'è una passione crescente per il gioco, che sembra anche un po' legata ai tempi non facili dal punto di vista economico, tanto per restare sui temi con i quali abbiamo cominciato la puntata. Ma dovete sapere che, riferisce Alessandra Dal Monte su 7, al centro di formazione croupier di Abbano Terme continuano ad avere una crescita di richieste. Qui c'è il caso, viene presentato il caso di una croupier. Le donne tra l'altro sono un buon terzo oramai delle aspiranti a questa professione, e c'è la storia proprio di una donna che ha fatto il corso nel 2006, quando appunto, ricordano 7, il Texas Hold'em, che è uno dei poker più conosciuti, non lo conosceva nessuno all'epoca, e tra l'altro racconta che la sua iscrizione avvenne appunto per caso. Dove vanno poi a lavorare? Sulle navi da crociera, vanno a lavorare spesso all'estero perché ci sono più locali, ci sono più casinò, e non è che le paghe sembrino così altissime. Pare che con le mance, ad esempio, nei vari casinò sulle navi da crociera si arrivi intorno ai 1200 euro al mese, quindi non è una professione che sicuramente si può fare per guadagnare, ma comporta evidentemente una passione, visto che appunto a questa scuola di croupier si trovano sempre più richieste di iscrizioni. Tutto questo su 7, che trovate anche oggi insieme al Corriere della Sera. E allora cambiamo argomento un'altra volta, salutiamo una nuova testata. A noi fa sempre piacere quando abbiamo qualcosa di nuovo da sfogliare, ovviamente, e la nuova testata si chiama Wellness, è un nuovo mensile che viene proposto da Donna Moderna. L'idea è quella di fare un mensile per l'ecologia del corpo e della mente. Lo spunto molto carino che viene presentato in copertina: qui non si parla più di diete, parliamo solo di stili di vita e alimentazione sana, quindi l'approccio non è tanto alle diete miracolose, ma quello proprio a una educazione complessiva del benessere. E così anche presenta lo spirito del nuovo mensile Patrizia Avoledo, che è il suo direttore, nell'editoriale che naturalmente sta nelle primissime pagine del nuovo mensile. Wellness con Donna Moderna, l'idea appunto di fare un mensile per l'ecologia del corpo e della mente, un giornale del benessere. E allora due piccole telegrafiche segnalazioni prima di chiudere, perché Paolo Corleoni questa mattina mi aiuta qui in questa puntata, mi fa cenni molto eloquenti. Ritornano i Pink Floyd, ritorna The Dark Side of the Moon su Panorama, tutti i particolari di come è nato questo disco mitico. Tra poco in uscita un cofanetto con tutto quello che un appassionato dovrebbe avere per questo mitico album. E poi un'altra segnalazione: chi invece giocherella con i computer ma è anche appassionato di musica, ci sono sempre più software, più strumenti. Vi segnalo, su Applicando, il mensile del mondo Mac, il supporto per agganciare l'iPhone e l'iPad al microfono e quindi potersi esibire lavorando anche con il proprio tablet o il proprio telefonino. E per oggi è tutto, vi ricordo che potete scriverci a magazine24@radio24.it. Buona domenica a tutti.